perché ci vuole orecchio. Abbiamo parlato di prurito all'interno dell'orecchio. Immerso dentro il secchio. Siamo tutte orecchie, come si dice. Grazie. Tutto, anzi parecchio. Posso parlare? Certo. Per fare certe cose. Le piacciono, le pietruzze, sì. Ho visto che... Bisogna avere orecchio. Bisogna avere il pacco immerso dentro al secchio. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Grazie alla musica ho attraversato mille vite. Ho potuto incontrare sguardi sognanti, ricevere sensuali abbracci, condividere momenti di esistenza che sono rimasti impressi sulla mia pelle. È difficile descrivere a parole che cosa ho vissuto. Ho appoggiato le dita sul pianoforte per raccontare a modo mio i mondi che avevo visitato e catturare quella che per me è la vera essenza della musica. L'amore. In tutte le sue forme, nessuna esclusa. Senza giudicare. E da questo messaggio che oggi partiamo per aprire una puntata molto speciale del nostro programma, che questa mattina ha un ospite d'onore, che vi presentiamo subito, il maestro Giovanni Allevi, che è qui con noi in carne, ossa e riccioli. Ciao Giovanni. Ciao, ciao. Allora vi ringrazio tantissimo per avermi invitato, per essere insieme a persone splendide quali voi siete, e ringrazio anche i radioascoltatori. 800 24 00 24 se volete parlare con noi e con lui. Certo. Ci sono tante novità da raccontare che lo riguardano. Per quello che mi riguarda invece, nella seconda parte della nostra trasmissione mi toccherà riportarvi su terreni meno romantici, meno musicali, ma che toccano comunque molto da vicino la vita di tutti. Come sapete, venerdì scorso il nostro governo ha messo in campo due importanti novità: i decreti attuativi sulle Jobs Act e i nuovi provvedimenti sulla concorrenza, in sostanza le nuove liberalizzazioni. È importante vederci chiaro, allora noi prenderemo in esame, lo faremo progressivamente, questi cambiamenti. Oggi iniziamo da quello che cambia per quello che riguarda l'intervento del notaio in alcuni atti notarili, in alcuni erogiti, perché per alcune circostanze non sarà più obbligatorio avvalersi di questa figura professionale. Cosa cambia? Ne parleremo dalle 11.45. Torniamo a noi. Giovanni, tu hai appena pubblicato un CD intitolato Love, con molte tue nuove composizioni per piano solo, da cui abbiamo tratto anche il bellissimo messaggio con cui abbiamo aperto la nostra puntata. Noi ti chiamiamo Giovanni perché, anche se tu sei un grande maestro, hai una fama internazionale, ci conosciamo da anni, ci vogliamo bene. E allora Giovanni, raccontaci un po' come si fa proprio tra vecchi amici, e noi lo siamo, come è nato questo tuo nuovo progetto musicale, che cosa ti ha ispirato, da che cosa hai preso il laudo. Noi avevamo fatto, ti ricordi, tutta una puntata per capire che cosa si nasconde dietro alle note, che cosa l'ha nutrito e sicuramente anche quali inciampi, no, hai dovuto superare, e alla fine come stai? Allora, adesso sto molto bene. In realtà è un percorso. Sì, è stato proprio un là a segnare l'inizio, perché il primo brano dell'album, che si intitola Yuzen, parte proprio in la minore con un bel la. Quindi ci hai preso proprio benissimo. È necessario. Allora, per poter parlare d'amore attraverso la musica, bisogna vivere intensamente. Io credo di averlo fatto. Bisogna anche passare attraverso degli inciampi, anche delle delusioni, anche attraverso attraverso un buio dell'anima per poter cercare quella luce che voglio resti impressa nelle mie note. Ero in una camera d'albergo a Kanazawa in Giappone 2 anni fa con 39 di febbre in una sorta di delirio. Ho ricevuto le prime note di questo album, affiancate a scene immaginarie di amore e di passione. Allora ho capito che in quel momento stava iniziando la composizione di un nuovo lavoro per pianoforte solo che sarebbe stato centrato sull'amore. Ecco. E quando tu senti che qualche cosa sta iniziando, ti fermi e scrivi? Sì, sì. Devo annotare su un foglietto di carta pentagrammato che porto sempre con me quella manciata di note che so essere l'inizio di una grande avventura. 800 24 00 24, se volete parlare con Nico, Debora e Giovanni Allevi. Tra poco presentiamo anche il nostro ospite, un altro ospite speciale che ci accompagna sempre, sì, in queste puntate in cui ci confrontiamo, prendiamo spunto dall'esperienza, dal vissuto di un personaggio noto per riportarlo un po' nella nostra quotidianità. E allora noi intanto ci ascoltiamo un breve estratto molto a tema, in linea con tutto quello che sarà il tema che affronteremo durante la nostra chiacchierata con Giovanni. Parleremo di amore, parleremo di fedeltà. Loving You. Loving You ci sta suonando Giovanni Allevi, ma come al solito qui a Cuore Denari noi prendiamo spunto dalla sua magnifica musica per ampliare lo sguardo, lo zoom potremmo dire stamattina, e interrogarci su una questione che interessa la nostra vita, insomma che ci riguarda tutti. E adesso vi spiegheremo che taglio dare a questi commenti. In studio con noi a questo proposito il nostro amico, ma è anche amico di Giovanni Allevi, Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta, scrittore e autore da ultimo di Tutto troppo presto, un libro che parla del bisogno d'amore dei più giovani e che tra l'altro è già alla terza ristampa in poco più di un mese, un poco meno di un mese, in pochissime settimane, sì, comunque. Ciao Debora, ciao Nicoletta, ciao Giovanni, ciao, che piacere Alberto. Essere qui. Allora Alberto, ti abbiamo invitato, ma vogliamo farti lavorare, perché oggi invitiamo i nostri amici da casa a seguire una lezione di alleviterapia. Partiremo infatti da alcuni brani di Giovanni per provare a guardarci dentro e magari a fare un po' due conti, non con i denari e con quelli ci aiuta Debora, ma con il cuore, quindi con l'amore. Sì, devo dire che secondo me oggi i nostri ascoltatori possono davvero fare un esercizio, dovremmo dire di alleviterapia, magari la chiamiamo musicoterapia, perché io ho ascoltato questo CD nella totale libertà di non saperne niente se non il titolo, e mi sono accorto che mi entrava dentro come una sorta di scatola piena di cassetti. Ogni composizione che usciva era un cassetto e a me apriva delle immagini proprio della mia vita, della mia famiglia, ma anche di oggetti, un giocattolo, un dolce. E poi pian piano, andando a vedere che cosa c'era davvero nell'idea, nel concept dell'album di Giovanni, c'è proprio questo, cioè fare una sorta di catalogo musicale, ma la parola catalogo svilisce, di tante diverse forme di amore che ogni giorno noi sperimentiamo: l'amore per noi stessi, l'amore per la persona che amiamo, l'amore per la famiglia da cui veniamo, l'amore per la nostra casa, l'amore per gli oggetti, le cose di ogni giorno che raccontano in parte quello che siamo. E ci accorgiamo anche che queste storie d'amore sono storie di fedeltà, c'è proprio un'idea di fedeltà dentro al CD che è legata al fatto anche che lui è così amato e così seguito da un sacco di persone che da 20 anni lo hanno scelto e non lo mollano più, basta dare un suo concerto per rendersene conto. Quindi direi che unire queste due parole, amore e fedeltà, per qualcuno è un ossimoro, per qualcun altro invece è proprio un aspetto su cui costruisci la vita. Oggi può essere la sfida che lanciamo ai nostri ascoltatori. Sì, e anche mi piacerebbe così riflettere un po' sulla parola fedeltà, sulla fedeltà, no? Allora potremmo chiedere ai nostri ascoltatori di raccontarci in diretta all'800 24 00 24 un esempio di fedeltà che ha toccato la vita, siete voi fedeli o qualcuno fedele a voi, un amico, un animale, un collega, un amore oppure una passione, un hobby, un musicista, come diceva Alberto, ci sono veramente milioni di persone che ormai rappresentano lo zoccolo duro dei fan, lui non ama chiamarli così, degli ascoltatori fedeli a Giovanni Allevi, oppure un cantante, uno scrittore a cui nel tempo siete rimasti fedeli. Chiamateci e tra di voi potranno ricevere una coppia di biglietti per il concerto di Giovanni Allevi, che tra poco partirà per una tournée, devo dire, sì, molto, no, in giro per il mondo, ma vi racconteremo dove andrà. E, i biglietti che potrete ricevere a casa, le tre coppie, riguardano i concerti del 15 marzo a Lugano, il 10 aprile a Livorno e il 12 aprile a Pesaro. Intanto Giovanni, che attendiamo le domande, gli interventi dei nostri ascoltatori che rifletteranno sulla condizione della fedeltà e dell'amore, tornerei a te perché tu hai fatto veramente un gesto d'amore in un momento così buio, hai voluto che questo tuo nuovo lavoro desse un segnale chiaro riportando l'attenzione sull'amore che è, come dici tu in diverse interviste, l'essenza di tutte le cose. Racconti l'amore in tutte le sue forme possibili, senza giudicare. Sì, questo è importante. Io credo che in un'epoca buia come quella che stiamo vivendo, dove dei fanatismi e dell'odio stanno prendendo il sopravvento per motivazioni puramente ideologiche, sia necessario liberarsi di tutte le sovrastrutture, di tutte le verità in tasca e riscoprire lo stupore incantato nei confronti dell'altro, riscoprire se stessi come inconoscibili, come misteriosi, come insondabili. Questo è il concetto fondamentale che vorrei che passasse attraverso la mia musica, che poi è un concetto che ha origine nel pensiero di Socrate, cioè il sapere di non sapere. Che viene fuori il filosofo, perché forza. È innato. Sì, il messaggio sovversivo di Socrate, perché non è pacato in realtà, perché prendere coscienza del non sapere e liberarsi di tutte le sovrastrutture significa anche in un certo senso far crollare l'autorità laddove l'autorità non merita quel posto. E dunque, ecco, torniamo allo stupore come i bambini, ecco, come quello dei bambini. Quello del fanciullino. Alberto. Sì, credo che effettivamente poi a rifletterci, no? Parte da un'affermazione molto forte, cioè in un tempo di integralismi, di messaggi molto definiti che in qualche modo anche cambiano un po' il corso delle cose del mondo, riaprire lo zoom, il focus di osservazione sulla propria vita e sulla vita degli altri, riguardare e riguardarsi dentro, cercando una parte di noi che magari ancora non conosciamo, una parte che c'è ma non abbiamo mai messo in gioco, può essere proprio una via per il cambiamento e anche una via per l'esplorazione. È interessante perché nell'album, tra l'altro, Love è proprio un amore a 360 gradi, va sulla vita, va sulle persone, va sugli oggetti, va sul proprio mestiere, va sulla propria arte, e mi viene quasi da terapeuta, no, chiedere a Giovanni quali di tutti questi elementi sono quelli che hanno costruito il Giovanni di oggi, non quello che c'era prima o quello che è oggi. Oggi, viviamo nel qui e ora. Sì, sicuramente tutti quelli che io vado ad esplorare, ma il più difficile e il più importante considero l'amore che noi dovremmo essere in grado di rivolgere a noi stessi, perché è così difficile appunto accettare le nostre imperfezioni, accettare i nostri limiti, in una società che ci vuole tutti perfetti, tutti super efficienti nel lavoro, loro sempre sorridenti, sempre impeccabili. Ecco, no, io sono convinto che il cuore dell'essere umano sia la sua vulnerabilità, la sua fragilità. E prendere coscienza dei nostri limiti, probabilmente il viatico per poter volare alto, altissimo, così come l'Albatros di Baudelaire. Che tra l'altro noi ascolteremo nel corso della nostra trasmissione, perché è proprio dedicato l'Albatros all'amore per se stessi, al prendere coscienza dei propri limiti, ad accettarli. Tra l'altro in un'intervista tu hai detto che quando suoni e ascolti questo brano torni a respirare, in un certo senso è un brano catartico. Per me è così, è un po' tutta la mia musica. Per me, cioè, perché io mi trovo continuamente a scrivere musica e a suonarla sui palchi dei teatri, nei concerti? Perché ha nei miei confronti un effetto salvifico. Io sono spesso preso, attanagliato dall'ansia e dal panico, e vedo nella musica una possibilità di respirare finalmente. E trovo assolutamente fantastico il fatto di riuscire a coinvolgere i miei ascoltatori, non i fan, ma i miei ascoltatori nello stesso movimento, nella stessa dinamica catartica, e quindi poi alla fine siamo tutti più contenti. Alberto, vedi quanta fatica che quotidianamente dobbiamo fare per accettarci? Deborah, lo facciamo anche noi. Altro che nel confronto, oppure anche un piccolo investimento quotidiano, per utilizzare i termini che a me sono più congeniali, diciamo, no? Introdotto questa puntata invitando gli ascoltatori a partecipare a questa sorta di lezione di alleviterapia. Abbiamo Giovanni che ci così prende per mano e ci conduce Alberto Pellai, perché sì, la musica le sembra una frase fatta, arriva al cuore, ma arriva. Giovanni ci ha raccontato, proprio partendo dalla sua esperienza, che cosa è capace di fare la musica, non solo in chi la scrive e la compone, ma anche nell'offrire la musica agli altri. Sì, credo tra l'altro che Giovanni forse non lo sa, ma lui di sicuro è uno dei musicisti più usati nella stanza dello psicoterapeuta. Spesso dobbiamo fare sessioni di bioenergetica oppure di training autogeno, ci vuole la musica di sottofondo. Alcune sue composizioni sono proprio l'elemento cruciale che permette poi a noi di lavorare con i nostri pazienti. Rispetto al tema della fedeltà e proprio alla leviterapia che vogliamo fare oggi con gli ascoltatori, siamo molto curiosi di sentire storie di fedeltà che hanno cambiato la vita di chi ci sta ascoltando, fedeltà che si può intendere proprio a 360 gradi, come nel CD di Giovanni. Chi è la persona che ci è stata fedele tutta la vita e quindi ci ha reso le persone che siamo? Oppure cosa è significato per noi essere fedeli al nostro lavoro? Oppure c'è un animale che ci ha raccontato una storia di fedeltà che non abbiamo mai più dimenticato? Oppure fedeltà a un oggetto? Qual è quella cosa che, se non ce l'ho davanti agli occhi, non è più casa mia? Raccontatecelo in diretta all'800 24 0024. Io, tanto che Alberto parlava, riflettevo. Anch'io stavo pensando sulle mie storie personali di fedeltà, naturalmente, che prescindono, direi, dalla famiglia, forse anche dalle relazioni sentimentali. Cercavo di allargare un po', no, lo spettro di riferimento. Pensavo a tante amicizie, per esempio, che mi hanno accompagnato in questi anni di Milano, quando io, come Giovanni, sono venuta dalle Marche, e sono state fondamentali storie di fedeltà, lealtà e grande vicinanza che ancora mi accompagnano. A me è venuto in mente quell'ambito lì, che sono sempre, no, quando uno poi riflette su queste testimonianze di fedeltà, poi si commuove, perché dietro la fedeltà c'è uno sforzo, un superare sempre degli ostacoli, un imporsi anche un po' dei paletti, un guardare avanti. Insomma, è una condizione complicata la fedeltà, che ha in sé anche una buona dose di altruismo. Giovanni? Io non posso che pensare all'affetto con cui i miei ascoltatori continuano a seguirmi, ma che bello, vi voglio bene, vi adoro, per fortuna. Ecco, e non sono parole che tu dici in onda, perché Giulio e Alice da Varese ci hanno scritto un messaggio al 349-238-6666. Io e mia figlia siamo andati a sentire Allevi tutte le volte che si è esibita a Varese. Lo scorso anno è venuta anche mia mamma, 85 anni, che si è pellata le mani per gli applausi e ha comprato libri e CD con un autografo gentilmente concesso a fine concerto dal grande e unico artista. Devo dire che arrivare a Giovanni devi nuotare in mezzo, sì, no, ai suoi ascoltatori, fan. Ascoltatori fan, ma quando arrivi lui non si sottrae mai. No, assolutamente, ecco. Anche perché io continuo a vivere questo affetto che ricevo come un dono inspiegabile, che devo continuare a meritare. Ecco, forse la fedeltà bisogna meritarsela, ecco, se vogliamo dire qualcosa in proposito. Ogni volta mi spremo l'anima su quel pianoforte, su quel palco, e poi quando le persone arrivano dopo il concerto per una foto, per un autografo, io non voglio perdere l'occasione di immergermi nei loro sorrisi, nei loro sguardi luminosi, e raccogliere da loro qualcosa di bello che poi mi rimane impresso, mi rimane addosso. Abbiamo in linea con noi Claudio. Sì. Si chiama da Milano. Buongiorno. Claudio. Eccola. Salve, complimenti innanzitutto per la trasmissione, vi seguo sempre tantissimo. Grazie. Salve. Allora, senta, io volevo raccontare la mia storia. Praticamente dal 1999, io ho 40 anni, ogni 3 mesi vado a donare il sangue al Policlinico di Milano. Bravo, questo è un esempio, Alberto anche un donatore, è un esempio di fedeltà che fa del bene, produce bene. È un impegno, sì, che diventa un servizio meraviglioso agli altri. Infatti io sono molto contento di farlo, anche perché sono uno zero negativo e sono un donatore universale, quindi spero almeno di poter aiutare nel mio piccolo, anche di fare del bene anche agli altri. Grazie Claudio, così salutiamo tutti i volontari, che i donatori di sangue, a cui abbiamo dedicato anche tante puntate. Allora, intanto partecipate come ha fatto Claudio per poter ricevere a casa 3 copie di biglietti per 3 tappe del concerto, del grande tour di Giovanni Allevi, Lugano, oggi, Livorno e Pesaro. Pesaro. 800 24 00 24. Voglio raccontarti, Giovanni, un bambino di 3 anni che adora la musica e soprattutto adora te, quindi hai veramente un ascoltatore, cioè li coltivi in erba. Trascorre ore davanti al DVD del concerto dall'Arena di Verona dirigendo l'orchestra con una cannuccia, ci scrive Benedetta. Che spettacolo! Perché ci vuole, che meraviglia, no? Io ho i brividi. Mamma mia, che bello. Perché non ci manda una foto di questa performance? Voglio vedere. Sì, la voglio pure Filippo. Cuore e denari. Mi guardi negli occhi da uomo a uomo. Chi c'è? Lei, dico lei, prima persona, è proprio notaio, no? Come no? Sono notaio. Abusivo. Ma chi è abusivo? Lei è notaio. Sono notaio! Con la laurea? Con la laurea. Laurea. Adesso si dice laurea? No, si è sempre detto così. L'amore, ne stiamo parlando in questa prima parte di trasmissione con Giovanni Allevi, e i sentimenti segnano le varie tappe della nostra vita. Segnarle però, oltre agli aspetti sentimentali, emotivi e di cuore, lo sapete, io che sono una donna di denari non posso che ricordarlo, ci sono anche gli ambiti più meramente economici e anche giuridici: l'acquisto di una casa, un matrimonio che inizia o che a volte purtroppo finisce, una persona cara che viene a mancare. Queste situazioni ci costringono a mettere insieme sentimenti, e documenti. Spesso in questi momenti ci troviamo di fronte a noi la figura del notaio. Oggi però, con il provvedimento sulla concorrenza varato dal governo venerdì, qualcosa potrebbe cambiare. In alcuni casi ricorrere al notaio sarà facoltativo. Si risparmia o si corre qualche rischio in più perdendo qualche tutela? Ne parleremo dalle 11.45. Ricomponiamo la nostra classe, pronti per una lezione di alleviterapia. Stiamo ascoltando My Family. Giovanni, a proposito di family, quali sono le aree di fedeltà della tua vita? Lo chiedo a te, un po' come abbiamo fatto con i nostri ascoltatori, di metterti un po' in gioco raccontandoci un esempio di fedeltà che ha toccato la tua vita. A noi sei molto fedele, l'abbiamo detto, perché dal tuo primo concerto noi c'eravamo e tu eri con noi, quindi sì, la fedeltà tra noi si vede, si tocca. Ma raccontaci un esempio di fedeltà che ha segnato e che ricordi nella tua vita. Beh, sì. Sicuramente in questo momento, anche sullo spunto delle note che mi avete fatto sentire, provo un legame fortissimo nei confronti della mia famiglia. Anche perché purtroppo per lavoro spesso sono costretto ad esserle lontano. E quindi io sono una rock star, diciamoci la verità, almeno così mi sento dentro, e dunque vado controcorrente e dico: ma che bella la famiglia. Ecco, credo che sia, voglio lanciare questo messaggio controcorrente, non so cosa ne pensa Alberto, ma io voglio essere davvero un po' ribelle in questo senso. Viva la famiglia. È anche un po' uno spirito marchigiano. Purtroppo mi riconosco in queste considerazioni. Devo dire che le radici credo che le sentano tutti, non è che voglio fare una questione di bandiera, però per me sono particolarmente importanti. Io le sento molto, molto profonde e molto forti sotto i miei piedi. E poi credo che sia meraviglioso, no, sentire la rock star che c'è lui, che gira il mondo, farà una tournée dove povero Giovanni, chissà, ogni giorno diceva entro in un teatro, un po' come entrare in una scatola, infilarsi e poi uscire e sì, correre. Uno dietro l'altro, inizio. E quindi cosa succede quando nel telefono senti la voce dei tuoi figli, per esempio? Non me lo dici, mamma mia, non me lo dire. Ecco, questa è la rockstar che diventa uomo come tutti noi. Arrivano tantissimi messaggi al 349-238-6666 di fedeli appassionati di Giovanni. Mi ha colpito l'amica che ha regalato al consuocero americano tutta la sua raccolta, e ancora questo signore ringrazia per questo regalo che si gode pienamente fra le varie testimonianze. Però ne abbiamo guadagnato uno anche noi, vero? Davvero? Sì, allora leggi. Aspetta che vado a riprenderlo. Intanto intanto sentirei Sara da Viterbo, perché vuole portarsi a casa i biglietti, vuole andare a sentire un concerto e quindi deve metterci al corrente del suo esempio di fedeltà. Sara, benvenuta. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti e buongiorno al maestro Giovanni. Buongiorno. Grazie per tutta l'emozione che ci regali sempre, e quest'album è veramente fantastico. Grazie, perché le tue emozioni, come dire, completano la mia musica, e quindi di questo ti sarò sempre riconoscente. Dici, Sara. Sì, il mio esempio di fedeltà riguarda proprio la musica. La musica che ho perso da bambina per svariati motivi, insomma, ho abbandonato e quindi l'ho tradita. Che però dopo un percorso lungo e anche abbastanza difficile finalmente ho ritrovato, e ad oggi posso dire che mi sento più me stessa, e quindi quella fedeltà nei confronti della musica è stata la cosa più bella che ho potuto ritrovare, anche per onestà nei confronti del mio essere, del mio io. E per questo ringrazio di nuovo anche il maestro Allevi, perché ascoltando i suoi album andando ai suoi concerti, ho potuto veramente scoprire che mi mancava una parte di me. Che meraviglia, posso aggiungere, posso commentare un attimo? Devi. Guarda, perché hai detto una cosa importantissima, attraverso la musica adesso mi sento più me stessa, sei andata a cogliere proprio il senso autentico e profondo di quello che significa essere artisti. Noi iniziamo un percorso accademico di studio con l'idea che la musica sia un ostacolo da superare e quindi ci sentiamo sempre inadeguati. Lei ha avuto la forza di rifiutare questo modello ed attendere che la propria anima trovasse il giusto modo di rapportarsi alla musica, ossia la musica è la possibilità e la capacità che noi abbiamo di condividere la nostra anima con il mondo, di ritrovare parti nascoste di noi stessi, cioè di sentirci noi stessi. Bravissima. Beh, ci piace. Intanto noi selezioniamo naturalmente l'intervento di Sara e a conclusione di questa prima parte di Cuore Denaro, naturalmente a giudizio insindacabile di Giovanni e di Alberto verranno assegnate le coppie di biglietti. Intanto continuiamo, no, a dare voce alle vostre riflessioni con Renato che ci chiama da Lodi. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua, Renato. Eccoci qua. Io volevo parlare della fedeltà al lavoro. Sì. Sono anche un marito fedele, perché ieri era 49 anni che era sposato. Auguri, che bello. Però volevo parlare del lavoro, perché nel lontano 1970 andai a lavorare in un'azienda piccola e ho fatto crescere per molti anni questa azienda. Quando ho compiuto 65 anni avevo tantissimi anni di lavoro, oltre a quell'azienda avevo già lavorato precedentemente, ero stanco e sono andato in pensione, avevo tanti anni di versamenti. Questo lo dice per te, Deborah. Questo mette la nota denari, sì, ma andando alla fedeltà, Renato? Sì. E poi nel 2012, nell'autunno del 2012, l'azienda mi ha richiamato perché aveva dei problemi di varia natura e quindi mi ha messo lì nelle funzioni di direttore generale. E naturalmente sapevo benissimo che avrei dovuto anche cercare un direttore che mi sostituisse. Certo. È stata un'esperienza magnifica, perché ho rimesso in carreggiata l'azienda. Grande soddisfazione. In maniera anche più facile, sì, di quanto prevedessi, insomma, grazie anche alla buona fortuna che a volte ci, certo, vuole. Aiuta sempre. E poi è stato fedele anche questo, esatto, no? Una reciproca, sì, testimonianza di fedeltà. Grazie a Renato da Lodi, l'ho trovato il messaggio per noi due. Ah, così sì, anche Giovanni, insomma, Rosi con un po' anche Rosi, Giovanni. Allora, Giovanni sta attento, sì, uno, sì. Uno ne abbiamo guadagnato, penso 150 Giovanni, ma uno è il nostro. Abbondantemente. Allora, la fedeltà è ciò che mi fa ascoltare tutti i giorni Radio 24, nonostante la moltitudine della concorrenza, ma la fedeltà a voi è naturale, perché mi sento parte della vostra famiglia e ne vale sempre la pena con voi. Non si firma, non ce l'hanno mandato le nostre mamme, immagino, perché non mandano altro, messaggi, ore. Ma noi siamo davvero felici. Benissimo. Di questo messaggio, e quindi lo volevo leggere anche a Giovanni. Per poi non parlare di tutti coloro che ancora continuano a raccontarci di quanto si siano reinnamorate di nuovo della vita e di nuovo del pianoforte grazie alla musica di Giovanni, bla bla bla, insomma tutte ormai sì, considerazioni scontate, ma che fanno sempre bene al cuore. A me soprattutto, ecco. Visto che devo partire per il tour, infatti, sono in preda alle ansie. Sì, e quindi un questo tour che ti, veramente, io non so, un giorno via l'altro, allora parti il 27 febbraio a Londra, poi il 28 vai a Bruxelles, poi il 1 marzo sarei a Parigi, poi il 5 te ne vai a Zurigo, e poi fai il 7 marzo a Berna, e poi finalmente, dopo un passaggio al 15 marzo di Lugano, e finalmente a partire dal 27 marzo sei di nuovo con noi a Roma, poi Napoli, poi Milano, Livorno, Padova. Come ti prepari a tutto questo Tour de Force. Correndo, correndo. Sì, sì, sì. Vedi? Voleva arrivare là. Io volevo arrivare lì perché noi diciamo sempre, ecco, che a cuore denari vogliamo anche aiutare gli ascoltatori, certo, ad adottare uno stile di vita sano. Anche questo è un amore, vero, per la propria, no? Ma non è la corsa dall'albergo al teatro, è corsa vera. No, corsa vera, sono 10 km al giorno. Insomma. 10 km al giorno, quindi questo vuol dire che anche lui è un nostro ascoltatore. Bravo, ma quando ti ricavi il tempo per farlo, Giovanni, quando sei in tournée per esempio? Vedo in hotel se c'è un bel tapirulan oppure se c'è un parco, infatti non vedo l'ora di andare a Hyde Park a Londra, però non so se è un'abitudine sana perché sta diventando proprio un fanatismo, cioè da parte mia. Beh, abbiamo affrontato spesso anche questo aspetto, no, sì, della sorta di dipendenza. Perché si liberano queste endorfine, poi abbiamo, esatto, anche Alberto che oltre a essere psicoterapeuta è anche un medico. E però questo significa che non possiamo più farne a meno, certo, sì, però questa ci allunga la vita, assolutamente. Allora, noi abbiamo il tempo di andare ai mercati, dobbiamo occuparci tra poco del notaio, ma abbiamo da assegnare i biglietti, esatto, Alberto. Beh, prendiamo anche velocemente Nicola da Torino perché magari gli possiamo assegnare anche la terza tranche. Nicola, se è rapidissimo, grazie. Rapidissimo, senta, salve Nicoletta, salve Deborah, salve... Forza Nicola! Benissimo, allora io ho un'amicizia che dura circa 30 anni con un mio amico dentista, io sono a Torino, lui è dall'altra parte dell'Italia, non ci si vede da quasi 20 anni, 25, eppure ogni 2-3 mesi ci sentiamo, e dall'altra parte io sento sempre... Ciao Nicola, e mi riempie il cuore, è come se mi dessero un... Nicola, ma fatela questa caramba, ma vedetevi per quale motivo ancora continuate. Ma bella, ma questo, ma Nicola è fantastico, io lo porterei in giro con il tour insieme a Giovanni Allegri, così incontra anche il suo amico. E poi fate i miei saluti carissimi a Giovanni Allegri, perché anch'io lo sento, lo amo. Grazie. Perché ha una spontaneità, una timidezza, una semplicità che vedo in pochissimi. Vedi, tutti lo vorremmo come amico del cuore, e ecco, un amico fedele. Nicola, noi dobbiamo andare dai notai. Esatto, a cui non sappiamo se resteremo fedeli a lungo. No, un ascoltatore, come dire, soffermandoci su quello che diceva Nicola, parlando di Giovanni Allevi, un ascoltatore dice: ah, il sorriso nella voce. E penso che gli ascoltatori, anche che non lo conoscono personalmente, questa mattina abbiano potuto percepire anche questa, certo, trasmissione. Insomma, allora, i biglietti che avete, gli ascoltatori che avete selezionato per i biglietti, rapidamente, Alberto. Ma sono... io direi bellissimi messaggi di Renato di Lodi, Sara di Viterbo e perché no Nicola di Torino. Allora, grazie ad Alberto Pellai che ci ha accompagnato. Grazie a voi. A Giovanni Allevi che adesso parte, ma che noi seguiremo. Sì, certo. E quindi ci resti sempre nel cuore. Sì. Mi seguirò sempre, va bene, da lontano, sempre sintonizzato su Cuore Denari e su Radio 24. Grazie, noi grazie, adesso andiamo. Grazie molte. Noi partiamo. Suggerimenti per chi è in viaggio e poi andiamo a ti porta a Bruxelles dopo. Vuoi vedere? Vengo, volentieri. Andiamo. Cuore e Denari. Noi abbiamo inteso appunto presentare per la prima volta il DDL annuale sulla concorrenza, assicurazioni e fondi pensioni, comunicazioni, poste, energia, banche, professioni e farmacie. Liberi tutti o quasi tutti, queste che abbiamo sentito dalla voce del Ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi sono le categorie interessate dal provvedimento sulla concorrenza che molti semplificano identificandolo con le nuove liberalizzazioni del governo Renzi, le renzuolate le hanno chiamate, Nicoletta. Da qualche giorno leggiamo con attenzione i dettagli di questo provvedimento che è stato varato dal governo venerdì scorso, ci sono molte novità che interessano noi consumatori, le commenteremo tutte piano piano nei prossimi giorni. Oggi iniziamo con le novità che riguardano il mondo dei notai. In sostanza, cosa è stato deciso? Che per molti atti di compravendita viene cancellata l'autentica notarile. Una novità che chiaramente ha fatto già scattare sull'attenti i professionisti interessati e anche le associazioni dei consumatori. In realtà fanno un po' fatica a quantificare risparmi e vantaggi che derivano da questa novità. Avremo tutto il tempo per fare i calcoli e noi oggi intanto interessa capire cosa cambia, anche se lo facciamo con le parti direttamente interessate. Vorrei salutare subito il notaio Domenico Cambareri, consigliere nazionale del notariato con delega alla comunicazione, che prima ho detto saluteremo da Bruxelles, invitando Nicoletta a venire con me, perché lei è proprio là, no? Notaio, buongiorno. Sì, esatto, buongiorno Deborah e buongiorno agli ascoltatori. Grazie. Sono qua, ma sono con voi. Bene. Fedelissimo. È fedelissimo. Tutto il notariato, devo dire, è fedele con noi. Allora, 800 24 00 24 per le vostre domande, se siete in procinto di stipulare un rogito per un immobile che cade sotto le categorie interessate al provvedimento, chiamateci oppure scriveteci. Tra l'altro, la soglia dei 100.000 è pure un aspetto interessante. Sì, no? Sì, sì, perché magari a Milano ci si prende un box, no? Purtroppo allora magari, sì. Magari in altri, no? in altre località d'Italia, altro ecco. Che anche una cascina, insomma. Allora magari, ecco, per queste transazioni immobiliari saremo un po' più sicuri di voler fare a meno del notaio. La nuova normativa ci dà la facoltà di farlo. Poi naturalmente, notaio Cambareri, se io non ho capito male, si tratta proprio di una facoltà, non è che obbligatoriamente per certe transazioni immobiliari inferiori ai 100.000 euro si vada a una figura diversa dal notaio, lo possiamo scegliere noi. Esattamente così, nel senso che la figura del notaio rimane per queste operazioni, ma si aggiungerebbe, perché per adesso si parla di un disegno di legge che dovrà passare attraverso le vie parlamentari, si aggiungerebbe la figura dell'avvocato, che avrebbe la competenza appunto di concludere delle transazioni immobiliari fino al valore che avete indicato di 100.000 euro, e a questo si aggiunge, con riferimento al notai, la possibilità di costituire delle società a responsabilità limitata semplificata senza l'intervento del notaio. Questo è il perimetro, diciamo, grosso modo dell'intervento. Certo, hai sentito come è stato freddo e distaccato il notaio, pur essendo direttamente interessato a questa, che probabilmente sottrae anche un po' di giro d'affari, no? Alla vostra categoria notaio. Voi quali sono le principali preoccupazioni che avete adesso, a prescindere dal fatto che molti atti verranno fatti in altre sedi, in altri studi professionali, no? Ma secondo lei gli aspetti più rilevanti di questa novità quali saranno per quello che riguarda il cittadino, il consumatore? Ecco, ha detto esattamente, la preoccupazione principale nostra in quanto pubblici ufficiali, perché per quanto possa sembrare un luogo comune, questo è, il notaio è un pubblico ufficiale che fa quello che fa perché lo Stato lo ha delegato a farlo, e una delle prime cose che deve fare è tutelare l'utente e quindi il cittadino. In questo caso verrebbe sottratta questa tutela al cittadino, questa è la nostra prima preoccupazione. Quindi le prime conseguenze negative sono nei confronti del cittadino, che vedrebbe meno la possibilità di avere la tutela da parte del notaio, pur potendo continuare ad averla. Certo. E la seconda conseguenza negativa di sistema è che si incrina il nostro sistema di circolazione del patrimonio immobiliare, perché no, anche di quello societario, che si fonda su dei pubblici registri immobiliari e commerciali affidabilissimi, invidiati in tutto il mondo. A cui voi spetta la tenuta. A cui noi spetta la tenuta, esattamente. Il rischio che questo sistema venga incrinato va a danno dell'intero paese, sia per il singolo cittadino, che a questo punto non può fare affidamento sulla certezza di essere, o perlomeno di poter dimostrare di essere effettivamente il proprietario di un immobile, per non parlare poi in questo particolare momento storico della caduta di credibilità del nostro paese rispetto agli investitori esteri, che sanno di poter contare almeno nel nostro paese, con riferimento ai registri immobiliari e societari, su questa certezza. Allora, cosa ne pensate di tutto questo? Lo chiedo agli ascoltatori, chiaramente 800 24 00 24, abbiamo già delle telefonate mirate. Prima quindi di sentire, chi cambia lo fa un po' a suo rischio e pericolo, Certo, rischia di non essere completamente tutelato. Diciamo che non abbiamo bene. Un'esperienza del passato tale per cui qualcuno ci possa garantire che da domani davanti ad un avvocato il percorso sarà. Di legalità ho sarà capito. Lo stesso. Poi chiaramente non possiamo certo dubitare di questa figura professionale, è comunque andare incontro ad un ad uno scenario che non conosciamo, sconosciuto certamente. Prima di sentire Marisa e Massimo, che a questo punto trasferirei nella seconda parte della trasmissione, avranno pazienza, un disegno di legge, notaio Cambareri, c'è bisogno di un percorso legislativo in Parlamento durante il quale probabilmente forse anche qualche aspetto della norma potrebbe cambiare, ma da quando i nuovi atti potranno essere siglati secondo la nuova modalità? Secondo la nuova modalità, quando il percorso parlamentare a cui stavate alludendo si sarà concluso, non possiamo saperlo, sicuramente si possono immaginare mesi. Perfetto, per sempre che questa proposta rimanga in campo. Allora, per magari gli ascoltatori che stanno proprio lì per lì firmando un rogito, non credo che per loro cambi nulla, ma lo sapremo dopo le 12:10. Cuore e denari. Abbiamo semplificato alcuni atti per cui diventa facoltativo il ricorso al notaio. Ci si potrà continuare a rivolgere a un notaio, ma c'è una facoltà in più, che è quella di rivolgersi a un avvocato. Stiamo andando verso, da un lato, una semplificazione, dall'altro una probabile riduzione per il consumatore anche di un prezzo, di un costo, avendo la possibilità oggi di avere una platea più ampia a cui rivolgersi, senza minare però quelle condizioni che riteniamo naturalmente essere essenziali di sicurezza da parte del consumatore. Avete sentito, il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi lo ha detto con molta chiarezza: la facoltà di rivolgersi ad un legale o ad un notaio, naturalmente quando si è in procinto di stipulare un atto di compravendita immobiliare di un certo tipo, transazione di valore inferiore ai 100.000 euro, quindi il notaio diventa facoltativo. Ne stiamo parlando anche in questa seconda parte di Cuore e Denari con il notaio Domenico Cambareri, consigliere nazionale del notariato con delega alla comunicazione. Ci ha già espresso le perplessità rispetto a questa novità contenuta nel provvedimento sulla concorrenza che è stato varato venerdì scorso dal governo. Più avanti, strada facendo, nel momento in cui questo provvedimento farà il suo percorso parlamentare, sentiremo anche i legali cosa pensano anche di questa novità per quello che riguarda la loro attività. Inviteremo naturalmente anche loro a Cuore Denari. Ma intanto si sono invitati giustamente da soli gli ascoltatori. Marisa da Milano e Massimo. Marisa, buongiorno, benvenuta. Ah, buongiorno, chiamo da Padova. Ecco, l'hanno trasferita momentaneamente, ma un giretto a Padova, guardi, conviene sempre. Ci dica, intanto, Maria. Grazie Nicoletta, grazie Debora. Niente, io ho una domanda, cercherò di essere rapidissima. Sì. Facendo un atto notarile, perché il notaio non è obbligato a specificare quanto va allo Stato e quanto va specificamente a lui come suo notario personale? Come non è obbligato, Marisa? Altro che, ci sono tre tipi di imposte precise che il notaio trasferisce allo Stato, dopodiché il resto è parcella e deve indicarlo. Il suo non vuole. Non sa cosa, perché mi è capitato proprio di recente, 2 mesi fa, di fare un... ho acquistato un minuscolo Vox auto per 12.000 euro e ho pagato ben 2.200 euro, che a me sono sembrati tanto. Devo rimangono dire... un po' lì, come si dice, 2.200 euro. E quindi lei, Marisa, non capisce se quanto di questo è percentuale sì. tassa che appunto il notaio è incaricato di trasferire per conto nostro allo Stato e quanto è sua parcella. Grazie, Marisa. Grazie tanto. Grazie. Buona giornata. Buona giornata. Notaio Cambareri, allora in realtà è la solita polemica che ci troviamo ad affrontare quando vi ospitiamo. Mi ricordo benissimo che succedeva anche a Salvadanaio, quando si parla della spesa che si deve affrontare davanti al notaio per definire una compravendita immobiliare. Se io vi devo dare, faccio un esempio naturalmente banale, insomma 5.000 euro, le persone pensano che siano tutti soldi che si corrispondano alla parcella del notaio. Ecco, riprendendo a spunto il caso di Marisa, vogliamo specificare le percentuali che competono a voi come onorario e tutto il resto invece che riguarda le tasse, insomma, da trasferire allo Stato? La domanda di Marisa ci consente di, risponderò sicuramente puntualmente alla domanda di Marisa, ma ci consente anche di fare una riflessione che ha oggetto anche di due spunti che avete dato pochi minuti fa anche voi. Avete parlato di cifre, di miliardi di imposte che vengono percepite sul settore immobiliare dallo Stato italiano. Il notariato ha sempre dato il maggiore contributo per la riscossione di queste imposte, perché il notaio è anche percettore delle imposte per conto dello Stato. Nell'ultimo anno ben 11 miliardi sono stati incassati dai notai e versati allo Stato. Trasferiti contestualmente, certo, con i rogiti che si firmano davanti a noi. Esattamente, questo è uno degli elementi che possono essere persi. Mm-hmm. Da questa manovra, quindi la prima cosa da ricordare allo Stato anche e al Ministro, perché Guidi, ritiene che i legali non possano farsi alla vostra stregua garanti di responsabilità solidale d'imposta che altre figure professionali non hanno. E poi, per quanto né io né gli altri miei colleghi notai abbiamo la sfera di cristallo di immaginare il futuro, come giustamente lei diceva, però possiamo basarci sul presente o sul recentissimo passato di altri paesi. Gli Stati Uniti d'America, ad esempio, che hanno un modello che non conosce la presenza del notaio, ha visto delle crisi la crisi profonda finanziaria trarre origine parzialmente dai furti di identità connessi alle operazioni ipotecarie negli Stati Uniti d'America. Il danno è mostruoso, più di 100 miliardi di dollari sono stati inflitti come sanzioni alle banche americane. Allora, il sottrarre la figura del notaio, se vogliamo guardare nella sfera di cristallo e anche al nostro recentissimo passato, pensiamo alle auto, che da qualche anno non sono più, per usare una parola comunemente usata, monopolio dei notai. Abbiamo però le auto fantasma, centinaia di migliaia di auto in circolazione in Italia sono fantasma. Oggi abbiamo gli immobili fantasma sconosciuti al fisco, potremmo avere anche gli immobili fantasma del povero cittadino che si vede privato di questa tutela. Notaio Cambarelli, noi capiamo certamente la vostra posizione, auspichiamo anche un mondo in cui ci siano un po' meno sprovveduti che comprino una casa da soggetti discutibili, non perché io auspichi che il vostro ruolo venga ad essere cancellato, naturalmente, però insomma davvero... No, ma torniamo a Marisa che giustamente... Esattamente, torniamo a Marisa che invece ha dal notaio... 12.000 euro per il box, 2.200. Anche questo è una questione di imposizione fiscale. Allora, gli acquisti dei box, che molto spesso sono di valore, diciamo così, modesto, ma comunque importante per il consumatore. Insomma, a Milano, euro, guardi qua. A Milano rischiamo i 100.000 euro così come a Roma, esattamente, ma non è così dappertutto. E quindi 12.000 euro di Marisa sono assolutamente comprensibili. L'imposta di registro però minima che il nostro legislatore pretende sono 1.000 euro. Soltanto di imposte di registro, se sommiamo le altre imposte e tasse minori, non cosa c'è poi? L'ipotecaria, notaio? Ci sono ipotecaria e catastale di 50 euro ciascuno, e poi ci sono comunque i diritti di voltura, i diritti di trascrizione, l'imposta di bollo. Ecco. Arriviamo facilmente intorno ai 1.200 euro, dobbiamo sommare anche i costi delle visure ipotecaria in tasca al notaio. Di questi 2.200, secondo lei? Rimane qualche centinaio di euro, dovendo fare una stima approssimativa intorno ai 600. Potrei sbagliarmi, ma grosso modo è così. Ecco la solita immagine, 2.200, di questi 2.200 forse in tasca al notaio ne rimangono 600, lordi naturalmente. Chissà quanto prenderebbe un legale se questo atto fosse stato firmato, se il provvedimento di cui parliamo questa mattina fosse già pienamente operativo, chissà se avesse fatto uno sconto, perché alla fine l'obiettivo del governo è quello, no? Rendere un po' più competitivo, ulteriormente competitivo questo mercato, come se voi non foste già tanti notai. Allora, qui una riflessione nell'interesse del consumatore va fatta. Non possiamo sapere quanto spenderà, giustamente qui la sfera di cristallo non l'ha nessuno, però attenzione, oggi l'acquirente sceglie il notaio, paga il notaio è un soggetto imparziale perché è delegato dallo Stato, il venditore non paga nulla. Il prossimo futuro cosa possiamo immaginare? L'acquirente che va dall'avvocato, l'avvocato stende un bellissimo contratto nel solo ed esclusivo interesse dell'acquirente di 30 pagine, il povero venditore cosa fa? Si prende il, suo avvocato per verificare se il documento pagine. È stilato correttamente. Ci ritroviamo la stessa operazione che deve subire il pagamento di due professionisti, entrambi, attenzione, anche questo è molto importante, fanno gli interessi esclusivamente, uno dell'acquirente e l'altro del venditore. Gli interessi dello Stato chi li fa? Chi ad oggi li fa il notaio, che percepisce l'imposta, sta attento a contrastare l'abuso dell'abuso del diritto e quindi dà i consigli all'acquirente per risparmiare, sì, ma nel rispetto delle norme dell'interesse dello Stato. Insomma, abbiamo fatto una rosa di possibili situazioni che potranno verificarsi nel futuro, però come dicevamo anche prima, il terreno è ignoto, chissà. Intanto... Ma prendiamo spunto da un caso che è suggerito da Massimo, buongiorno, ci cagliamo proprio subito, nella concretezza. Massimo, buongiorno. Massimo, sì. Eccoci. Pensavo che se ne fosse andato, e così lei è di Milano, sì, non è di un'altra città, abbiamo scritto bene. Sono proprio di Milano e faccio la sintesi di cuore e denaro acquistando una casa per la figlia. Bravo, è una questo ci piace. Casa, però costa quasi come un box, quindi va bene, secondo va benissimo, quello che è la realtà strana del notaio, insomma, i box costano 100.000 euro, io invece compro un 2 locali a 85.000. Vabbè, Massimo ha fatto, ha aspettato così, un po', felici. I prezzi sono scesi, ha fatto bene. Allora, quello che volevo chiedere in parte è già stato risposto, cioè non potrò usufruire di questa possibilità perché ho un... diciamo disegno di legge, mentre io ho già fatto il compromesso e oggi lo devo fare entro fine marzo. Ma si è fatto fare un preventivo dal notaio di quanto spenderà in quel giorno? Sì, mi sono fatto fare un preventivo e oltre i 1.000 euro che so già come minimo che dovrò pagare per quanto riguarda le tasse, la parcella totale compresa l'atto del mutuo sono 4.000 euro, che è una cifra che rapportata al valore della casa oggettivamente è molto alta. Sì, effettivamente anche i 2.200 complessivi, però ecco lì ci sono le 1.000 euro, come dici, i 1.000 euro come diceva lei di imposta di registro, cioè l'imposta notaio Cambareri, ribadiamo un po' quali sono le tre imposte più importanti che si pagano su una transazione immobiliare, su un atto di trasferimento di proprietà. Allora, le imposte che si pagano sono naturalmente l'imposta di registro, che la cui aliquota può variare dal 4% nell'ipotesi delle cosiddette agevolazioni prima casa al 9% in caso di non agevolazioni della prima casa. E questo dipende però dalla qualità del venditore, perché se il venditore fosse un soggetto IVA andiamo nel campo IVA. Il 2%, mi sono sbagliato, l'imposta di registro è del 2% per la prima casa, 9% non prima casa. Nel caso dell'IVA abbiamo viceversa l'aliquota del 4%, o del 10 o del 22 a seconda dei casi, ma non complichiamoci troppo la vita. Sì. Vorrei, la c'è questa imposta, la prima cosa che vorrei dire a Massimo è si è chiesto al notaio un preventivo, il notaio avrà dato un preventivo dettagliato in cui lui avrà potuto verificare scorporando i vari costi, e cioè l'acquisto della figlia di Massimo è prima casa, non ho prima casa, il notaio avrà evidenziato l'imposta di registro, avrà evidenziato gli onorari della compravendita, ma avrà evidenziato anche gli onorari del mutuo. L'esempio di Massimo si distingue da quello di Marisa perché qui aggiungiamo anche un contratto di mutuo e ci sarà dentro anche l'IVA, per cui verifichi bene. Sì, non so bene se l'abbia Massimo. Detto in realtà Massimo mutuo. Che l'ha detto. La parola mutuo è stata pronunciata e subito il nostro notaio l'ha. Certo. Perché non è un solo atto di compravendita, ma sono due atti. Per cui su 85.000 euro di valore di questo immobile che è oggetto di questa compravendita, 4.000 euro complessivi che si sborseranno il giorno del rogito sono appunto una minima parte di parcella notarile. Cioè io adesso non li voglio difendere, per no, carità però, del cielo. Vorrei che però fosse chiara questa dinamica. Anch'io ho capito. Che, come dire, è l'80% di quello che si deve lasciare nel giorno del rogito è... imposizione fiscale, chiamiamola così, notaio Cambareri. Certo. Ecco. Perché i notai sono percettori di imposta per conto dello Stato. Sì. Se l'è scritto, me lo sono scritto. Ecco, ma attenzione, non sono percettori, sono percettori che fanno questo lavoro gratis, perché noi abbiamo in Italia figure professionali, concessionari, che nel senso che lo Stato non vi paga per fare gli esattori per conto suo. L'imposta, ma riscuotono anche l'aggio. I notai non hanno l'aggio perché riscuotono le imposte, le pagano e ne sono anche solidalmente responsabili, perché se il pagamento non intervenisse i soldi il notaio ce li deve mettere di tasca propria. Ecco, è una situazione un po' complicata, veramente sono certa che ne vedremo delle belle e non vedo veramente l'ora di fare anche la trasmissione con il mondo dei legali, chissà come si stanno preparando a questa. E poi ne faremo un'altra, notai e avvocati insieme. Notai contro legali. Allora, noi siamo sempre disponibili al confronto. Lo so notaio. Anche siete perché anche... questa purtroppo varrebbe la pena di dirlo al ministro Guidi, non è una norma sulla concorrenza, ma è una norma che incide sulla competenza, cioè i notai ormai sono abituati negli ultimi anni ad assecondare le richieste della concorrenza, perché così il mondo ormai va in questo senso. Ma questa non è una manovra che favorisce la concorrenza, perché è una manovra distorsiva della concorrenza, perché gli avvocati opererebbero su un piano regolamentare diverso dal piano dei notai. Voi avete benissimo evidenziato la circostanza con riferimento alla riscossione delle imposte, ad esempio. Allora c'è da domandarsi perché questa manovra, se forse non va nell'interesse del consumatore? Ma è un po' come se noi domani vi chiamassimo per difenderci, non so, io magari adesso do un pizzicotto a Nicoletta, Nicoletta mi denuncia, io chiamo il notaio per farmi rappresentare in tribunale, no? Non credo che il mondo degli avvocati... Non avrebbe senso, non abbiamo competenza per quello. Le competenze hanno un senso, perché ciascuno ha la sua specializzazione, il nostro ordinamento è costruito attorno alla specializzazione. In medicina questo è molto chiaro, no? Questa sì. la specializzazione è molto, no, evidente e profilata. Claudio, sì. Buongiorno a lei dalla provincia di Milano. Buongiorno. Vediamo che storia complicata ci può raccontare oggi. Non è molto complicata. Mia moglie è proprietaria al 50% di un appartamento e l'altro 50% è proprietario di mio figlio. Sì. Per problemi, chiaramente adesso ultimamente, di tasse, Tari, Tasi, IMU e quant'altro, volevamo, visto che ci vive mio figlio, volevamo trasferire tutta la proprietà a mio figlio, chiaramente con una, tra virgolette, una vendita. Allora io mi sono già informato da un notaio, il valore da dichiarare dovrebbe essere il valore catastale della casa, sì. Comunque tutto il passaggio mi verrà tra tasse, onere e quant'altro, 2.800 euro. Sì. Allora, onestamente, con mia moglie mi conviene rimanere così e ripago un paio di anni di Tari, Tasi, no? Ecco, brava. Fatto due conti. Il gioco non vale la candela, dice Claudio. Certo. Allora, adesso con questo, invece, con questa nuova legge che dovrebbe, si potrebbe evitare di utilizzare il notaio, visto che non ci dovrebbero essere problemi, sulla casa, di proprietà. Sì, certo, è una, come dire, un trasferimento semplice, sì, non perché è non gioca un trasferimento in casa. Semplice. Ecco, potrei usufruire di questa possibilità. Quando vorrebbe farla l'operazione, Claudio? Se ha a tempo, potrebbe anche rimandarla, ecco, esatto. Certo. Allora, ecco, questa era la mia domanda. In teoria. Una seconda domanda era, io siccome sono in ballo anche con un altro trasferimento da diritto di superficie in diritto di proprietà dove attualmente abito, inizialmente mi avevano detto che c'era una tassa di registro al 19%, poi con la legge di stabilità l'hanno riportata ancora a 200 euro. Voleva sapere se è vero, qua ci grazie mille Claudio. Allora, notaio Cambareri, per quello che riguarda la prima parte della domanda di Claudio, questa operazione infrafamiliare, no? Lui spera di poter risparmiare qualcosa facendola un domani senza che si intrometta, mi viene da dire, non è la parola giusta, un notaio. Adesso non so se rivolgendosi ad un legale più avanti potrà risparmiare qualcosa, di fatto però le imposte su questo passaggio di proprietà dovrà pagarle, quindi su 2008 quanto mai potrà andare a risparmiare? Fantastico, la domanda è perfetta, Claudio ci dà l'occasione e lei in fondo ha già dato la risposta perché ormai conosce questo mondo tanto bene quanto i notari. Non mi faccia passare come pronotariata. No, non la faccio passare notariato. Le ho detto che conosce questo mondo, non che sia pronotariato. Questo dimostra quanto la norma sia ambigua e sia stata presentata ambiguamente, perché il risparmio non c'è. Se ci siamo appena detti che l'incidenza maggiore attiene alle imposte, questa norma non diminuisce certo le imposte, semplicemente aggiunge al professionista notaio e al professionista avvocato. L'unico motivo per cui dovrebbe esserci un risparmio di costo è che l'avvocato si faccia pagare meno del notaio, ma se abbiamo detto che grosso modo l'80% del costo delle imposte e il resto di compensi, dove sta il risparmio? Quindi su quei 2008 che ha indicato prima Claudio, ammettendo che al notaio in questo passaggio di proprietà vadano, non lo so, 500 euro, caso di Claudio possiamo anche spendere giusto una parola in più, sì, fermo restando poche perché stiamo chiudendo notaio. Pochissimo, il caso di Claudio faccio anche fatica ad immaginare che si debba fare una compravendita se la moglie di Claudio vuole regalare, perché questo mi sembra il caso, sì, la quota al figlio, forse qui si tratta di una donazione, forse l'impatto fiscale è addirittura minore, forse la questione di Claudio va approfondita, ma certo il risparmio di costi non si ha. Non dimentichiamo che la norma che stiamo discutendo prevede espressamente che l'avvocato debba munirsi di un'assicurazione. Esatto, che non abbiamo ricordato. Notaio, non ce la facciamo. voglio solo sapere se voi farete battaglia durante il percorso parlamentare del disegno di legge. In 5 secondi. Farete un po' di lobby? In 5 secondi le dico che i notai sono pubblici ufficiali a servizio del cittadino e dello Stato. Non possono non fare una battaglia nell'interesse del cittadino e dello Stato. Ne sentiremo allora ancora parlare di tutto questo e spero anche con notaio Cambareri. Grazie, grazie. Buona permanenza a Bruxelles. Grazie a voi. Notaio, a presto. Noi abbiamo terminato. Ma siamo qua domani insieme a Carmelo Lauricella, Marco Lombardo, Isotta Scenna, tutti sempre quanti, qui con voi tutti e per in voi. Famiglia, domani.